Yes People, questo è Porto Royal. We are soldiers in the army. The brain, the eagle and the dragon can't stop the lion, so let's keep charging on. We are soldiers in the army. Babylon a bite down the land like a python, but them can't stop the Rasta man. Some calling all politicians, doctors, lawyers, and teachers too. Too much illusion. We need an end to the crisis we going through. Environmental protection, but there's no protection for me and you. So much corruption, and the system don't know what to do. Some if we say, clear and bold, me nah sell me soul, me no matter if a day or night. Fire burn the mind control, it's freedom rule, and that's why me ready to fight. No matter if you're young or old, hot or cold, no matter if you're black or white, we just now bend down or fool. Get up and play your role, stand up and fight for your rights. We are soldiers in your army. The bear, the eagle and the dragon can't stop the lion. To the north, the south, the west, and to the east. Marching out for justice, and we marching out for peace. Marching out for unity and love in all the street. Beat the night, you bring the drum, and then we kill the beast. Yeah, I'm a drink and every soup, we're not gonna join the bloody feast. And not everything the Rasta put between with teeth. Careful at the place in all the street to put your feet. Remember, send the earth up in the meat. We are so. Iniziamo questa nuova puntata di Porto Royal, mercoledì 21 dicembre 2022, si avvicina quella che è la settimana natalizia e questo non vuol dire che noi ci fermiamo, anzi siamo belli carichi. Iniziamo questa nuova puntata salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci seguono su pirateradio.it, saluto tutti gli amici e tutte le amiche della chat di Pirate Radio e tutti gli amici e tutte le amiche di Reggae Mania, saluto tutti gli amici Kawa di Guidonia. E iniziamo questa puntata nell'attesa che arrivino anche Smash e Otello, ma iniziamo così. Yes people, questo è Port Royal, come tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 in diretta dal Brancaleone, tranne me che sto registrando a casa vittima un'altra volta della febbra. Comunque non ci facciamo assolutamente scoraggiare e questa sera i primi 40 minuti li farò io. Partiamo ovviamente con un più che doveroso tributo a Terry Hall, il cantante degli Specials che ci ha lasciato purtroppo poche ore fa, e poi ricorderemo il compleanno invece di un altro grande che ci ha lasciato, Toots Hibbert, appunto Toots and the Maytals, e il compleanno invece di uno che ancora, ringraziando il cielo, ce l'abbiamo ancora qua, ed è il compleanno anche, è stato da poco il compleanno anche di Dandy Livingston. Quindi partiamo subito da Terry Hall, cantante degli Special, appunto dal 79 all'81, poi dal 2008 ha lavorato anche con altre band quali Fanboy 3, Colorfield, Terry Blair, Anushka e Vegas. Nella sua carriera ha anche prodotto due album da solista collaborando con una serie di artisti come Damon Albarn dei Gorillaz, Dirty Dozen, Tricky, Sinead O'Connor, giusto per citarne qualcuno, e proprio quelli andremo a sentire. Paradossalmente poi questa sera sentiremo anche appunto Dandy Livingston, che è l'autore di uno dei pezzi più noti degli Specials, e sto parlando ovviamente di A Message to You, Rudy, ma non partiamo certo con quella. Questa è Ghost Town feat. Amy Winehouse, per ricordare Terry Hall, cantante degli Specials, che ci ha lasciato appunto solo l'altro ieri. Bless up! Port Royal, fai a Pompabilon in session il mercoledì. Ventuno 23, Pirate Radio. Così, ricordando Terry Hall, questa volta in combo con un'altra signora della musica europea, Sinéad O'Connor. Questa è una delle collaborazioni che Terry Hall ha fatto una volta lasciati gli Specials. Sinéad O'Connor, Terry Hall, All Kinds of Everything. Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing wells, wedding bells, early morning dew. Sky, winds that go howling, breezes. Terry Hall, appunto il storico cantante degli Specials, ma per fortuna ha fatto anche cose un attimino più agitate. Questo prossimo pezzo è una collaborazione con i Gorillaz di Damon Albarn e i Dirty Dozen. Questa è la ciuma. pezzo alla special, dove si riconoscono appunto le atmosfere di Ghost Town, i coretti classici di quegli anni. E proprio in quegli anni fu fondamentale il prossimo pezzo. Poi passeremo a Dandy Livingston con la stessa June, quegli anni, per creare la Two Tone, per creare l'amicizia e la solidarietà tra bianchi e neri ed ex caraibici immigrati in quel di Londra. Gli Specials hanno sicuramente contribuito tantissimo, apprendendo la lezione dei Clash e anzi forse anche espandendola, e poi con la loro etichetta, con il loro stile, hanno sicuramente contribuito a tutta la nascita del movimento Two Tone in Inghilterra. Quindi veramente grazie Terry Hall. This is a message to you, Port Royal. Questa sera, ma vi ricordo anche che presenteremo il nuovo EP di Giulietto Mann e DJ Dibba a gamba tesa. Ma continuiamo prima con i festeggiamenti per i compleanni, che a parte appunto Dandy Livingston ha ormai un'età, sicuramente sarà all'ascolto e quindi vorrà andare a dormire presto. Glielo facciamo subito il suo tributo. Dandy Livingston, cantautore, compositore e produttore giamaicano naturalizzato britannico, noto soprattutto per il successo del 72 Susan Beware of the Devil e per appunto Rudy A Message to You, che poi abbiamo appena sentito nella versione degli Specials. Troppe cose ci sarebbero da dire, vi basti pensare che appunto è nato a Kingston il 14 dicembre del 43 e la sua attività musicale è cominciata nel 1961. Ci andiamo a sentire l'originale di Rudy, A Message to You. Stop your running about, me straight and right out. Stop your running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Then you will suffer. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. Celebrando il Budabash di Dandy Livingstone, lo facciamo ancora a parte il pezzo più famoso, che è quello che avete appena sentito, Rudy, a message to you su etichetta Trojan. Quest'altro era entrato direttamente nella top chart UK, Susan Bewer of the Devil. Susan, beware of the devil, don't let him spoil your heart. Susan, beware of the devil, don't let him put us apart. Did I hear you say we got a part? Or did you say let's go for a walk? Did I hear you say you got someone new? Or did you say you like the color of my shoe? I don't know what's going on, you're not the girl I used to know. You're turning my world upside down, branding me with a frown. Hey, Susan, beware of the devil, don't let him spoil your heart. Susan, beware of the devil, don't let him put us apart. Did I hear you say you're leaving town? Or did you say you're sticking around? Did I hear you say you're serious? Or did you say it's all a bluff? Why do you wanna change our dreams? All the things we planned and schemed. Do you really wanna go? Or is it just an overnight glow? Hey, hey. Susan, beware of the devil, don't let him spoil your heart. Susan, beware of the devil, don't let him put us apart, no, no. Did you see we got a part? Or did you say let's go for a walk? Did you see you got someone new? Or did you say you like the color of my shoe? I don't know what's going on, you're not the girl I used to know. You're turning my world upside down, branding me with a frown. Hey, hey. Susan, beware of the devil, don't let him spoil your heart. Hey, Susan, beware of the devil, oh, don't let him put us apart. Whoa, oh. Susan, beware of the devil, don't let him spoil your heart. Andiamo con l'ultima tune di questo tributo a Dandy Livingstone, uno dei grandi oldies della scena reggae mondiale. Questa è Sunshine Girl, la dedichiamo a tutte le massicce all'ascolto, a tutte le massicce presenti sulle nostre chat di Telegram e WhatsApp. Collegatevi e seguite sempre il sito www.pirateradio.it per restare sempre aggiornate e a questo punto anche aggiornati sulle nostre prossime attività, scoprire i podcast e scoprire le altre trasmissioni della radio. Dandy Livingstone, Sunshine Girl. You're so sweet like the sugar plum tree I used to climb when I was a boy, baby. Ooh, your touch is so Fratello Smash questa sera, come preannunciato da inizio puntata, Tauli ci ha abbandonato, ma sta in allegra compagnia con la febbre. Scoprire il nuovo EP di Giulietto Manne, DJ Vita, gamba tesa, continuiamo ancora con i futuri, questa volta festeggiamo il compleanno in cielo di Tools Hibbert, storica voce di Tools and the Metals, l'abbiamo visto più volte a Roma, anche per lui troppe parole sarebbero sicuramente inutili, meglio lasciar parlare la musica. È stata una delle figure sicuramente più importanti della musica giamaicana e ska nel mondo, basti pensare solo a 54-76 degli anni 60, ispirato proprio al suo numero di cella, quando era detenuto per possesso di marijuana, una pena ovviamente ingiusta in quanto c'era già rastafariano, e quindi 54-46 That's My Number racconta proprio quella storia. Nel 71 poi, con un contratto, grazie a un contratto con Island Records, diventano star internazionali insieme ai Metals. Proprio nell'81 poi si riuniscono negli anni 90, e appunto anche negli ultimi anni li abbiamo visti in concerto più e più volte anche in Italia. Continuiamo quindi così, questo è il tributo per Tools e non potevamo che partire appunto da 54-46. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. Yeah. Give it to me four times. 54 46 quando appunto negli anni 60 si è ritrovato rinchiuso in carcere, a differenza di altri, non per omicidi, stupri o spaccio internazionale di cocaina, ma in quanto rastafariano. Continuiamo così, questo è Monkey Man, a proposito di Special Sammy Winehouse, ma l'originale. Tootsie Bert and the Metals, of course. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Pirate Radio, ai ai ai. L'ultima giornata del tributo a Toots. Yeah, listen. Most heaven, West Jamaica. Oggi andiamo a sentire Gamba Tesa, Giulietto Mann e DJ D-Bo. All my friends there, pulling on those reeds, young and then the mountain. E meglio di così non potevo concludere. tanti anni che ci conosciamo con Giulietto. I tempi del Pala Rockness, dell'Easy Roots, della Castelli Massive, Bless Up, Mastafaia, Madde che sound. In the morning, Pasti Cosmi, the song you remind me of. Bring Out Piange. Poi con Fluidi in Iaga, eh? Oh, yesterday. E ovviamente a tutta la miscela rara family. My memories. Un piacere e un onore presentare questa sera Gamba Tesa e Giulio Toman, DJ di Bacchino. Bella Port Royal, bella Faia Pan Babylon, qui a Giulietto Man è appena uscito il mio nuovo EP, si intitola Gamba Tesa, prodotto interamente da DJ Dibba, ascoltatelo, se vi piace diffondetelo e fatelo girare, one love. L'ha detto già Giulietto. La tua disapprovazione è il mio pane quotidiano e non andarci piano. Gambate contro questo peso piuma che le tue parole scivolano come bagno. Nessuna scena, Giulietto Man. Mi detestami ed insultami, visto che non parlo di ghetto o di fame nel quartiere, perché non mi appartiene. Butta merda su di me perché non rappresento il concetto di artista che ha stampato in mente, perché non sono cresciuto in una casa popolare, perché non ho mai patito fame. Io non sono il tipo di artista che quotidianamente pensa a sesso, droga e soldi disperatamente, contemporaneamente. Non faccio il rasta giamaicano né scimmiotti rapper americano. Non è reggae, non è raga, non è rock, non è black, non è pop, stop. Non è roots, non è rap, non è funky. Sono fuori d'ogni scena e vado avanti. Non è reggae, non è raga, non è rock, non è black, non è pop, stop. Non è roots, non è trap, sono stanco. Non conforme alla vostra idea di branco. Non compongo a scopo di lucro perché a me interessa il messaggio che c'è dietro ad ogni lirica. Non faccio musica per soldi, ma i soldi servono per fare musica. Quindi paga il mio cachet, visto che il denaro fa da padrone. Visto che fatica e sudore sono dietro ogni canzone. Visto che il mio prodotto è un'autoproduzione. Visto che non sono prodotto di un produttore. Io decido cosa, quando e come. Scrivo solo se c'è ispirazione. Scrivo solo se c'è ispirazione. Non è reggae, non è raga, non è rock, non è black, non è pop, stop. Non è roots, non è rap, non è funky. Sono fuori d'ogni scena e vado avanti. Nessuna crew, nessuna posse, nessun clan. Sono fuori d'ogni scena e da qualsiasi giro. Miro bene e tiro, carta, penna e scrivo. Potente superiro con la biro, capito. Ormai da anni sono qui a digiuno di MC e finti cantanti che venderebbero la madre solo perché hanno fame di aver fama. Se questo è il panorama, io con un salto vado in alto verso un'altra direzione, un'altra dimensione che non punta al successo, ma al contenuto. Sputo inchiostro sopra un foglio bianco che diventa nero, oppure colorato come arcobaleno. prendo carta e penna e vola libero il pensiero. Io prendo carta e penna e vola libero il pensiero. Non è reggae, non è raga, non è rock, non è black, non è pop. Gamba tesa e Giulietto Man, DJ Diva, lo trovate su tutte le piattaforme, in tutti i digital store. Questa sera ci sentiamo le quattro cime che compongono l'EP per quanto riguarda intro e special, che concludono e fanno parte delle sei tracce dell'EP nuovo. Andate alla scena. Continuiamo anche con l'ordine di uscita, quella di prima ricordo era Nessuna Scena, Giulietto Man, DJ di Batte. Siamo due corpi nudi, sotto un lenzuolo, due corpi nudi uniti, in un corpo solo, mi perdo e mi ritrovo, nei tuoi occhi volo, in questo letto il paradiso non sembra lontano. Siamo due corpi nudi, sotto un lenzuolo, due corpi nudi uniti, in un corpo solo, mi perdo e mi ritrovo, nei tuoi occhi volo, in questo letto il paradiso non sembra lontano. Ti muovi con lentezza in questo mondo che va sempre più di fretta e non aspetta. Anima, mente e corpo è la tua formula vincente. Sei perfetta, sei perfetta. Non segui mode, modelle, influencer o TV, sei tu la moda. Col tuo stile con quegli occhi blu, madonna, tanta roba. Meglio del tramonto di Ia, del Gorongoro in Tanzania. Bella mia, eccezionale. Come Roma capitale, come in Sicilia, di Sardegna il mare. Siamo un Salento a ballare. Meglio di un giardino di Babilonia. Paragonato a te non c'è storia. Tocco il cielo con un dito, quando sei qui vicino a me, vicino a me. Siamo due corpi nudi, sotto un lenzuolo, due corpi nudi uniti, in un corpo solo, mi perdo e mi ritrovo, nei tuoi occhi volo, in questo letto il paradiso non sembra lontano. Siamo due corpi nudi, sotto un lenzuolo, due corpi nudi uniti, in un corpo solo, mi perdo e mi ritrovo, nei tuoi occhi volo, in questo letto il paradiso non sembra lontano. Passioni, interessi, restiamo gli stessi, evolvendo ogni giorno. L'arte, gli amici, il cibo col vino, la natura, i viaggi, il nostro contorno. Siamo liberi da vincoli, catene o gelosie estreme. Tanto a cosa servirebbero? Disdegniamo atteggiamenti possessivi, manteniamo i nostri spazi per restare più vicini. E quando ritorno a casa dopo una giornata amara che mi ha fatto fare a pugni contro questo mondo, curi le mie ferite riportando un senso più alto a quello che è intorno. Poi ci abbandoniamo con la testa sui cuscini, gemiti insieme a respiri, sottofondo Dalla e Guccini. Siamo due corpi nudi, sotto un lenzuolo, due corpi nudi uniti, in un corpo solo, mi perdo e mi ritrovo, nei tuoi occhi volo. Mi perdo e mi ritrovo, gamba tesa e due corpi nudi, sotto un lenzuolo, due corpi nudi uniti, in un corpo solo. Giulietto Man, DJ Diba, e andiamo a scoprire anche la title track, come dicono quelli bravi, gamba tesa. Vorresti far l'artista, ma a me sembri più un tronista. Un tipo che sta meglio in copertina una rivista. Sei il tipo che rovina ogni tipo di musicista. Non si acquista, il rispetto si conquista. Come acqua liscia vai giù. Io con la musica mi elevo e tu. Ci metto anima e corpo da quando ero Easy Roots. Tu venderesti l'anima per apparire in TV. Lascialo andar via, il flusso della musica, fallo roba tua, attiva la fantasia. Abracadabra ed ecco che parte la magia. Non lo studi a scuola, no, non è una formula che impari a memoria. Se inizi per fallo, per fama e gloria, è meglio che ti spari con un colpo di pistola. Giulietto Man, raga mo fin serio. Quando prendo carta e penna vola libero il pensiero. Te dico che è sincero, ho sentito per davvero. Tutto quello che dico e scrivo è lirica e sincero. Giulietto Man, raga mo fin serio. Quando prendo carta e penna vola libero il pensiero. Te dico che è sincero, ho sentito per davvero. Tutto quello che dico e scrivo è lirica e sincero. Non chiama Martino. vista, chiamami egoista, visto che la musica è la prima della lista, visto che è presente sempre, visto che è una fissa, ma quale amore cieco, amore a prima vista. E tu, passa carta e penna, che scrivo tutto quanto scrivo ogni faccenda, sull'agenda, Tiba manda un altro beat, in bocco con il mic, tutto è naturale, va così, entriamo a gamba tesa, quando l'arte si palesa, facciamo la nostra cosa, mentre tu rimani a casa, in mente sempre un piano, che dà vita a un nuovo brano, batteria, basso e piano, penna nera nella mano, se vuoi lo famo strano, chiaro, tipo Jessica Ivano, mio caro, senti come andiamo, può essere prima o può essere vero, questa mano, paga il cash, è qui, DJ di Bae, Giulietto Mann, ragamuff in serio, quando prendo carta e penna vola libero il pensiero, te dico che è sincero, sentito per davvero, tutto quello che dico e scrivo in lirica è sincero, Giulietto Mann, ragamuff in serio, quando prendo carta e penna vola libero il pensiero, te dico che è sincero, bombo ritmo di DJ Diba, bombo ritmo di Giulietto Mann. Andiamo a sentire l'ultimo estratto dall'EP, questa è Salvagente. Io però ti giuro che se sono qui è per una storia d'amore che sarebbe quella mia con la musica. Prima di avere la testa di mio padre, nei titoli di mio fratello, non ho la mano di mia madre, ognuno in spalla il suo fardello. Adesso che ne ho più di 30, questa zavorra pesa più che mai. La musica rimane al centro, non paga eppure crea pagamento. Montagna troppo alta da scalare, come fare? Lascio stare, per natura autodifesa, inadatto ad arrampicare, destinato a nuotare in mezzo al mare, a lasciarmi trasportare su altri lidi da esplorare. Con le onde, la corrente mi ha portato alla deriva, oggi sembra di affogare, non è niente. Lei a far da salvagente, non affogherà. Non affogherà. Non affogherà. Non affogherà. No, no, no, no, no. No, no. Non affogherà. Non affogherà. Non avrò la testa di mio padre, titoli di mio fratello, non avrò la mano di mia madre, nemmeno in spalla il mio fardello. E quando ne farò 60, questa zavorra sarà piuma ormai. Se la musica non sarà al centro, non avrò nessun rimpianto o pentimento. Grato per ogni esperienza di questa animata vicenda. Dopo l'approdo mi sento nuovo, non c'è montagna che tenga. Se mi guardo indietro son fiero del mio saper nuotare. S'annega il pensier mio e naufragarmi è dolce in questo mare. Con le onde, la corrente mi ha portato alla deriva, steso al sole ad asciugarmi corpo e viso. Oggi rido e guardo in faccia il paradiso. Non affogherà. Ricordiamo che Gamba Tesa EP è fuori su tutte le piattaforme DJ Diba, alle produzioni di questi video che sono veramente una bomba. Giulietto Mann alla voce, questo è Porto Royal, tutti i mercoledì 21-23, lascio la palla a DJ Smash, Osh, Original Tinkle, Fire Pond, Babylon Pondi, Central, Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Pirate Radio. Nella musica riesce a mettere più. Ciuna guana. And a happy new year. And a happy Christmas edition. I'm tell you that Christmas is very near. And darling, we work all through the year. Let's enjoy a Merry Christmas and a Happy New Year. Spanish, Spanish, the world is turning upside down. sing their little songs. So why can't we live in unity too? Yeah. Sister Mary, put on your best dress. We are going to a Christmas ball. We are going to little things start. Yeah. Yeah. We'll eat up the cake. Drink up the wine and things will be fine. Yes, Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and we love it so. E se ancora non l'avete capito, buon Natale a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Driving a minivan from Kingston to Westmoreland. Then we go to Moby and visit Doctor's Cave. To the beach in the grill, that's where I want to chill. Then we go to Ochi and walk up Don's River Fall. Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Yes, Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Yeah, Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Yes, Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Yes, Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Jamaica is a land of wood and water. They take away a slave from Africa. We work for the plantation owner. They want to kill out the roots and we culture. Then can't stop we from get stronger. Look on Bob Marley and Peter. Bonnie Wheeler, the true Rasta. Marcus Garvey, as we profit. Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Yes, Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Jamaica, Jamaica, we don't have no snow. Tourists come and tourists go, and they love it so. Yes, Jamaica. No more bloodstain, no pain. Anybody see Richie? Warning, warning. Watch this. Truth is a Richie, you're too bad. Walking up and down with a 16 over your back, you must be mad. You're too bad for my purpose. Them say anybody papa for you a shoot first. True, Richie walk him no run. Anything disrespect him gonna come when me sing say. Richie dog but him no smile. Me friend you better canter if you make him smile. Wake up in the early morning, him in a fire. Eating breakfast, now people say him cry. He's like him on a mission, he must get higher. 16 the overback in a him waist, him a the chopper. Anything disrespect him, it a go flatter. Skin a go pick off, so like old feather. Can't believe me eyes, him would a shot him on a brother. So you can imagine how him a go treat another. Richie, you're too bad. Walking up and down with your 16 over your back, you must be mad. You're too bad be my purpose. Them say anything papa for you a shoot post. I know see him daily drop in the water, it's rotten. Richie cool blooded and him don't powder nothing. This man don't know how me say go find you too. Weeks after that me see the boy end up cripple. You see mood a dead if him even no whistle. Oh it a go go when you see him you can't giggle. You're too bad. Walking walking up and down with your 16 over your back. You must be mad, you're too bad for my purpose. Them say anybody pop off for you a shoot first. See him with a gun, don't think it is a toy. ZP-100, no bus boy, no boy. Richie him a bus, if well as I go on a joy. I hit him news, Kipple, John, Peter and Troy. Anytime him go for my shirts, him ever slick. Close him, no other shoe shine and polish. Bag the over back, I wonder if he furnish. With the Magnum, the tire was an X amount of clip. At step a walking and bossing a bitch. One thing in a mind, finish and accomplish. You're too bad, walking up and down with your 16 over your back. You must be mad, you're too bad for my purpose. Them say anybody pop up for you a shoot must. Richie walk him no run. Anything disrespect him gonna go. When me sing say Richie talk but him no smile. Me friend you better canter if you make him get wild. Wake up in the early morning, him in a fire. He eat him breakfast and he must set him prior. He's like him on a mission, he must he get higher. 16 day over bucking up him, you see him of the chopper. Anything disrespect him, it a go flatter. Skin a go pick up, so life out feather. Can't believe me eyes, the mother kill him. Seguiamo Port Royal dalle 21 alle 23, www.pirateiradio.it. Siamo ancora qua con Port Royal, DJ Smash al mic. Oggi alle selezioni, puntata prenatalizia. Intanto vi diamo degli auguri. Terminiamo la frase appena. Oh, it a go-go when you see your young giggle. You're too bad, walking up and down with your 16 over your back. You must be mad, you're too bad for my purpose. Them say anybody pop up for you a show cause. You should walk in the road. Shouldn't do me that, woman, you shouldn't do me that. May African girl, you will need me the comfort. To the max, alright. Girl, you disrespect me. For your friend, I know me know she would have loved for you of me again. Hey, go disrespect what we have going on. And me did promise I fi keep her warm. Woman, you're just the man we love. You know the man left you a pal. Intanto un piccolo tributo a Terror Fabus. Anche lui ha festeggiato qualche giorno fa. E non lo festeggiamo. Yes, to herself me know she must confess. Treatment when me give her she never get it yet. Because she disrespect me for love friend. I know me know she could have loved me as me again. Hey, got disrespect what we have going on. And me the promise I feel deep I warm. Woman, you should not do me that. Shouldn't pull off such act. You fall off in your friend. Them see they know you flap. Them can you up on the track. Your place like some idiot. When me think you did that look. You have your eyes them locked. Know me certain. Say she would have want to roll the back. I know one time, two time from me do she come on a knock. But I'm an African princess, me give me the comfort. From one to one down the club. This girl, you disrespect me. For a friend, I know me know she would have loved to have me again. Hey, got disrespect what we have going on. And me did promise I could keep her warm. Well, from a certain girl, me say me have you walk far. She's no strength of mine, just a careless power. She make another man come pick her up in a car. Then one bugger sitting won't hear me no star. She can't look me in my eyes. She know to herself, never tell her to step aside. I don't mix up on them shame and pride. But you got to know what and what to avoid. This girl, you disrespect me. For a friend, I know me know she could have loved me again. Hey, got disrespect what we have going on. And me the promise of the keep her warm. Figure it out if you can. If you can, let it alone. Now listen me. People, watch this. Come a sec. So man a play number two. Nuff man a I love a silly nuff fi show. But I and I no in a none of that. So man a play number two. Nuff man a I love a silly nuff fi show. But I and I no in a none of that it won't do. Cause anytime me see the little fat thing kill me a fi sing say. Wow, me Babylon show starting. Fi man the whole of them cause she charming. Every man knows that the woman them a leave. Them hotter than pepper seed again. Wow, me Babylon show's baby. Catching child, the old gangsta crazy. da quel divano, muovetevi da quel divano, dance all time. That's amazing. How could I not want to teach you things? Me no in a no if I'm both are depends. Come your body ready, then we shall be friends. Girl, I'm a girl in a color contact lens. So man a play number two. No, man a high level ceiling no fit show. But for your nine, no in a no nah, that it won't do. Cause anytime you see the little fat pinky loo, me a fi sing say, Mommy, come in, I'm just starting. Yeah, me ma the one of them cause she charming. Every man knows that the woman they man leave. They matter than the procedure say, Mommy, come in, I'm just baby. Yeah, and she join the old gangster crazy. If I your booty body, me say me can't resist. So how the hell will if a man a switch? Watch how your text and get in on the program. Could I lose a wicked if your program wrong? What will you rank with a miss and mind where you yam? Man, we play with fire, never live too long. Bully you a bully, bully be certain no man. Pull a big speech and your one bag of can. Leave out this week, but you're dying and it's strong. Cause in the beginning, most people are gonna sing. So man, I play number two. Yeah. No, man, I never feel enough to talk. Woman, want good love. Now sympathize. Woman, want good love every night. Right now. Yeah. Love a girl. Okay. Watch the time. Stop playing with my mind. Oh, I know you're not too up when she will want the wine. You call me on the phone. I know I want a talking angel. Come down. And now I want you home. I tell Jackie, girl, me not use no stone. Hello, hello, hello. Here I am now. move non-stop. I miss the girls in my wine from front to back. And everybody well dressed, that mean we trash. Me see a rasta man a dance and a flash in ya. Me see a hot girl a wine up on a red cap. And everybody hands high and dollars a flash. Them a say pull up me selector for that junior hat. For me say hot girl fire it a blaze. No, I have no pity. Bring it from the town straight to every city. Rock the whole world straight to the nitty gritty. And we create this sound for the universe. Miss the music and the blessing, you know love it, you curse. So turn up the bass line, make we rock this world. Every boy, every human, every man and girl. For me say turn it up louder, make it play. For me say pull up, me select anyone the DJ. Love the way it sound, everybody a sway. Got them rocking away. Fast one of my dark and a smile. Soon up a pace style. Them said they rub out of music going wild. And me I tell them rock the muffin. And you know we're full of style. So listen to the bass one time. Just turn up the bass. Just turn up the bass. Just turn up the bass. And make we shake up the place. Just turn up the bass. Just turn up the bass. Just turn up the bass. And make we nice up this young place. So we are rock your world. I rock your world. I love. We a play the bass, I play the bass, no have no pity. Bring it from the town straight to every city. Rock the whole world straight to the nitty gritty. I say we a rock your world, I rock your world, I rock your city. We a play the bass, I play the bass, no have no pity. Bring it from the town straight to every city. Rock the whole world straight to the nitty gritty. Down to the gritty, down to the gritty, down to the gritty, down to the gritty, down to the gritty, down to the gritty, up in Iowa City. Everybody, all the beer, we've got the titty. Got the whole world, boy, we know I'm the pity. They're mashing up the world out there. Some of them rich, but them just don't care. Some of them sell them soul, oh my God, I swear. I don't understand why they so unfair. Fear, you want? Inna your brain, them put fear, so nobody no care. It's all about money, nothing out there for sheer. Everybody want for them part of the cake, I say. But nobody know of the thing to give away. It's all about greed, each one in high speed. Everything where them a eat, no a GMO. Them call it fast food, just cash and go. But what they really eating, ain't nobody know. They say it's a crazy world, full of crazy people who don't know the truth. Only the things they told ya. Some things we foolish are what I don't know where they might chat. It's not about color, red, white, nor black. We all went to school, so we get the brainwashed. Would you really believe that? They're mashing up the world out there. Some of them rich, but them just don't care. Some of them sell them soul, oh my God, I swear. I don't understand why they so unfair. They mashing up the world out there. Some of them rich, but them just don't care. Some of them sell them soul, oh my God, I swear. I don't understand why they so unfair. Hey, talk about yourself, them nothing, trust nothing at all. Only if you waste money and have a ball. Some people don't even know who to call. In a world like this, them have a thinking small. Some said that them rich and them standing tall. But them worse than those where you have nothing at all. Some people don't even love themselves. That's why they all wanna be someone else. Some of them don't even have no experience. Most of all, figure use them self-confidence. Them no know nothing about them unborn talent. That's why this whole world is so violent. I don't don't know what they're doing to the people. I don't know what they're doing at all. I see that they're fighting for money, but they already have it all. They see them mine out the diamond and the gold, and them relentlessly seeking for soul. They just wanna take more control. Half of the story still not been told. They're mashing up the world out there. Some of them rich, but them just don't care. So when I sell them soul, oh my God, I swear, I don't understand why they're so unfair. They're mashing up the world out there. Some of them rich, but them just don't care. So when I sell them soul, oh my God, I swear, I don't understand why they're so unfair. Hey yo, Yamumo! Big up Fire from Babylon scene. Qui Joman rappresenta per Otello aka Towali, Pietro aka Osh, Emmanuel aka Smash, Ilario aka Ilario. Oh, lo sai! Senta quello mostro sound che spacca tutto quanto, sin. Joman Atelio. Aha! Yamumo! Stick it on down, stick it on down, stick it on down, down, down. Stick it on down, stick it on down, fire from Babylon. Stick it on down, stick it on down, stick it on down, down, down. Senta, buon umore! Yamumo! Se vai avanti senza scordare mai, saprai da dove vieni pure dove vai. L'hai fatta lorda, ah no! Ma tanto tutto torna tra un po', lo sai che... Smash e hype come l'original dancehall style. Sta febbre che c'ha Osh no, non passa mai. L'hai fatta lorda abbastanza, ma tanto tutto torna come i 90. Femino gyal, wine femino. Amo sona vaya bon Babylon. Stone Jamaica anche se non vada Kingston. Ci sono Ilario e Towali, impazzisco. Ribadisco che non cambio gusto, manco se mi paghi dritto come un obelisco. Denso l'unica lingua che capisco, 90 lo stile che preferisco. Non dire mai che è finita, finché non è finita. Fai a Pom Babylon, la pista non è mai vuota. Pensavi fosse tutto game over. E io senta promo, fai a Pom Babylon, sin. Ti controllano e telecomandano, sulla tua vita decidono, ti dirigono. Fai a Pom Babylon, ti controllano e telecomandano. Se loro dicono, dicono e fanno tutto quello che vogliono, ti controllano e telecomandano. Sulla tua vita decidono, ti dirigono. Senta Bonomo, ti controllano e telecomandano. Ma chi controlla i controllori non lo so, sentamo! Mi giattano come una massa e qui si sempa. Contano su becchini che si scordare i diritti memba. Fai a Pom Babylon già tu di samo tu ripeta pa seconda. Mintano ma lo solo dove vita non li interessi. Compa Towali non è Nucana, non si chiama Alessi. Ilario non è un numero ma non voglio neanche i sentimenti. Volerono Mash e Smash, fossero in catalessi. Fai a Pom Babylon ti ripiglia come un pugno un te denti. Ti controllano e telecomandano, sulla tua vita decidono, ti dirigono. Fai a Pom Babylon ti controllano e telecomandano. Se loro dicono, dicono e fanno tutto quello che vogliono, ti controllano e telecomandano. Sulla tua vita decidono, ti dirigono. Senta Bonomo, ti controllano e telecomandano. Ma chi controlla i controllori non lo so, sentamo! E io fai a Pom Babylon, sin, original Joman Atelio. Onusai, only good vibration, sin. Sentamo che chi sa vibra, chi ti duna, vibra chi ti piaccia, a vibra chi ne manca, onusai! Yamumo! So we have no man, let go of man, no man. He's an officer. Ah, boy. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? Let me see your license, me say. No officer. Step out on the car, me say. No officer. Put your hands on your head, naughty. No officer. This is just an everyday situation. Dealing with them Babylonians and them suspicion. Every day they see me and them just harass I man. Slam them back against the wall and start to search for weapon. Lego officer, me not a big drugs man. You're a hooligan or a rubber man. When there's some crucial into clean. E questo è Port Royal. Only Positive Vibration. Tutti i mercoledì. Dalle 21 alle 23. Let me see your ID, me say. prophesy. Evacuate the premises. Prophesy. We have a conversation to some white. Prophesy. No more toleration for your brutality. Corruption and destruction of the minorities. You really have the confidence to kill us with these. I serve it for the devil, put them pure vanity. May never hang over stand your insanity. You want to lock me off it, just a one stick of weed. Don't even have no mercy for the young pickaninny. The way you treat us get to you, it's real sickening. So, no officer, I'm missing. No officer, No officer, No officer, God. No officer, I'm missing. No officer, God. No officer, No officer, lift up your shoulder, I'm missing. No officer, you have a stolen item, missing. No. You fit in the description. No officer. When you carry down your boots, it's missing. No officer. Are you bad minded? I don't know. Tell me, do you have a conscience when you drink the soul? You must take a pleasure putting tax man with toll. Abusing your authority, you must have a go. You're on this whole city like a big shit show. And now it's time for you to leave your children alone. The iniquity workers, I'm gonna weep and moan. Cause if you're drumming this way, I'm gonna fling rocks. Hi, down. I am Martina Peroni, Paralympic champion, e anch'io supporto Port Royal Pirate Radio. Let's go! No officer, I'm along. No officer. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? No officer. Listen, no officer. Mr. Kamosi, no surprise when they send infos to me. Opposite when plain clothes approaching me. Follow the rules is what they propose to me. Selling their souls for what is old, you see. Nothing is old, nothing is promised. Never know the government would have run up in a them garrison. Without no sorry, without excuse. Soldier man in a them lorry, everybody gets abused. And everybody have them views now. The media is on, so know where you get your news from. And the blood up on them shoes now. When them walk in the trace, look them hard in them face and say, can't quantify. Roy Rayan couldn't sanctify. Say enough of them, them sent to die. So the city a intensify. Say the ghetto them a gentrify. Well I, nobody no identify. Enough bodies unidentified and just a lie de. Then where the gun de? Dead pan Saturday, buried Sunday. Like Solomon a gun de. Like a no sons of Solomon them have done de. Leonard Howell a pinnacle and them land de. Subdivision them deal it under and they. So learn it cause them come back with them plan they. So tell me how far do you wanna go now? Hey, cause them we ratatatatata when you pop out pow. Kingston, be warrior. Kingston, free up your mind.

Babylon burning, I begin to cry. Prophecy fulfilling in front of your eyes, brother. I search all these cities and can't find no life. Remember, it was dry bones that Elijah revived in the valley. Let it all go. È stata una puntata veramente ricca questa di Port Royal. Giulietto Mann e DJ Dibba. I'm from the concrete jungle, Jaja, beg your refrain. Shout to the mountain and near an alley, I call your name. God, they will drop you in the city, get you hooked on the pain. Give you the money, all the girls and all the guns and the fame. Well, Babylon fight them marijuana and I promote cocaine. I mess with the food them where you eat and then that mess with their brain. When I talk to the youth, them from the La Vega city and the last name. Chat to the A's and then go call for Rastafari. Don't get caught in a Babylon flame. Babylon shall go up in flames, yeah, yeah, yeah, yeah, brother. My sister, you can't save nobody, oh no. If you lose your soul, you got to free yourself, oh yeah. The only freedom you know. And Jaja, give me life to live, so let them live. Yeah, the only love that you'll receive, in the love. Bella Port Royal, bella Firebomb Babylon, qui a Giulietto Mann è appena uscito il mio nuovo EP, si intitola Gamba Tesa, prodotto interamente da DJ Dibba, ascoltatelo, se vi piace diffondetelo e fatelo girare. One love. From your got it inside of you, got it inside of you. Let it shine out. From your got it inside of you, to show the world what you can do. Powerful, you're coming with the force of a runaway train or a raging bull. You're powerful, change the world with the stroke of a pen. You got the power, so be good. You're powerful, fight for the people's rights. Let the people unite, yes, you should. You're powerful, and your only limit is the sky, yeah, yeah. So I tell them, be a leader, stay up front. Let your light shine, don't be no disciple. Set yourself back if you turn. Tell yourself, say, you are get style. Guns not the future, me tell them future. Yeah. Every day, don't be no slave, don't be no vulture. Study road, cause we're rough, don't sell out. Free no bread, know your roots, remember your culture. You're powerful, you're coming with the force of a runaway train or a raging bull. You're powerful, change the world with the stroke of a pen. You got the power, so be good. You're powerful, fight for the people. You're powerful, and your only limit is the sky, yeah, yeah. You know the truth, it is a plus to conquer them. It is a must, step on them, can you hat it up. From your barn, you got this stuff in your vocabulary. There ain't no word called giving up, don't be no push around. Stand firm, speak up, don't be a victim. I make compressors while you're out to dust. Don't be weak in and think you reach your limit and you're stuck. take you, you, you. There's no limit to what you can do, oh do, oh do. You know you have it inside you, inside you, inside you, yeah. Sing again, I'm like a shock to your system. A tornado, a avalanche, you see me in a the whirlwind. I'm coming at you like tsunami. Hot me now, warm me, liberator, them call me. Be charismatic and charming. The pen is mightier than the sword, that me tell them from morning. Explode, ignite, shake the earth with me rumbling. All bullets me humbling, me now no time for stumbling. Cause powerful. Ciao a tutti amici, sono Bulla di Africa Unite e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes I, buona senso, wicked! Senta buon original, giovane chi la chiazzo la mente per Fire Upon Babylon, sin. Big up Otello, k.a. Towali, big up Pietro, k.a. Osh. Yes, Emanuele, k.a. Smash, Ilario, k.a. Ilario. Yamu mo! Senta buon original, giovane chi la chiazzo. Na na na na na na na na na. Senta mostra combinazione speciale. Na na na na na na na na na na. Gioma mo cuchi la chiazzo. Quando faia domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina, brucia quando sta cima se mettia. Cucu brucia quando faia domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Cucu brucia quando l'energia domina. Faia bomba bellon bombo clas. Viene la danza Kuzmash per sentire la buona vibra che da Ilario arriva e la potenza della musica che nessuno da mi limita. Ogni giorno a mia mi stuzzica la voglia di cantare, ballare, esporre la mia lirica. Mo yamu, mo yamu, bene canisha l'amo, l'alba aspettamo, bene canisha l'amo. Senta buono original, fire from Babylon, champion soul. Fuku brucia quando fai a domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuku brucia quando l'energia domina, brucia quando sta cima se mettia. Fuku brucia quando fai a domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuku brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bellon bombo cla. Boom! Ogni guagliuna chi tova li senta, ci piglia buono tutto e tutto quanto fomenta. Pur ogni femmina rimana contenta. Ho sciabato occupata tu come palanca, sì, sta musica ci è piaciuta. Tu l'abbiamo sentita, subito poi l'abbiamo amata. Poco dopo l'abbiamo conosciuta e imparata. Capita e rispettata, tanto corona super sempre conservata. Fuku brucia quando fai a domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuku brucia quando l'energia domina, brucia quando sta cima se mettia. Fuku brucia quando fai a domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuku brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bello bombo cla. Ultimi 10 minuti per noi e poi ci vediamo per l'ultima puntata del 2022. Ci sentiamo, anzi, l'ultima puntata del 2022, mercoledì prossimo, sempre dalle 21 alle 23 su www.pirateiradio.it. Under thy mother and thy father, that thy days may be long. Hey! I me mother make me day a song. I me daddy make me day a song. Yeah. The Almighty make me day a song. Brought to me a black man coming out of the ghetto. I me mother make me day a song. I me daddy make me day a song. Yeah. Conquering lion make me day a song. Brought to me another ghetto youth that come from out of the ghetto. Hear me ghetto youth that tell you respect your mother. Yeah. Sì, kids slap on the rhythm. Stop from stress your mother. You could never get a better. Ultimamente ha dato fuoco al disco d'oro di DJ Khaled. Me daddy make me day a song. The Almighty make me day a song. Brought to me a black man coming out of the ghetto. And me mother make me day a song. And me daddy make me day a song. Conquering lion make me day a song. Collaborazione insieme a DJ Khaled, DJ statunitense, che però non lo ha rispettato. Ha scritto in piccolo il nome dell'artista giamaicano che ha collaborato alla produzione dei due ultimi album di DJ Khaled. Ha tolto dal disco d'oro il figlio di DJ Khaled, e ha dato fuoco, boom, al disco d'oro. Alcuni piangerebbero per avere un disco d'oro, lui invece boom, boom, è dato fuoco. Grew up big and them not know what I want. Mommy used to care you when daddy gone, but a daddy used to care mommy before you born. No matter where you say you're indebted to mama, no matter where you say you're indebted to papa, no matter where you say you're indebted to cha-cha, down this foundation because that's not proper. And me mother make me day a song, and me daddy make me day a song, yeah. The Almighty make me day a song. To be a black man coming out of the ghetto. And me mother make me day a song. And me daddy make me day a song. Conquering lion make me day a song. Brought to be another ghetto youth that come from out of the ghetto. Hear me ghetto youth, I tell you, respect your mother. Remember down this, respect your mother. Best places in the world, take your mother. Your mother make you and ever you make your mother. Hear me, you tell me, though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just said that you don't say love. So stay a dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, you try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I get my love. Gonna do, girl. But I never have a promise and I'm bling bling for all the girl. But I just love it when me fling fling control the girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cats and me just can't perform. I love you, baby. I show you get a little loving and be gone. You don't know how to let me. I ain't got no time for no kissing and charm. Not even how to kiss me. I do my take your little heart by storm. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I just said that's enough to love. To stay a dancer, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love, yes, I'm still in love. What a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I told me give up, don't give up, survive, bye, bye. Se non puoi darmi quello che vorrei, io mai ti sfiorerei. Se le cose non vanno ok, io mai ti toccherei. Anche se a volte tu mi metti nei guai, alle mani non arriverò mai. Ciò che chiedo è più rispetto per lei, per lei. Succede a casa, in famiglia, tra le proprie mura, nel posto più tranquillo, nella zona più sicura, e dove avviene ogni giorno la tortura. Sembra tutto ok, ma poi chissà da quanto dura. Poi ci sono altre che non prendono le botte, ma abusi quotidiani, ricatti, insulti e minacce. Perché lui non lascia tracce, l'infame degli infami che può avere mille facce. Questo è il padre, il fratello o proprio suo marito, un perfetto sconosciuto che ha incontrato sulla metro, un prete, uno sbirro oppure un pervertito. Ma con chi ve la prendete, figliacchi, fate schifo. E proprio ora chissà quante ce ne stanno, intrappolate che un'uscita non ce l'hanno. Piango perché 200 donne sono morte in questo anno. Se non puoi darmi quello che vorrei, io mai ti sfiorerei. Se le cose non vanno ok, io mai ti toccherei. Anche se a volte tu mi metti nei guai, alle mani non arriverò mai. Ciò che chiedo è più rispetto per lei, per lei. Lei non è un oggetto, quindi smetti di parlare di possesso. E non è manco il tuo giocattolo da sesso. A volte per entrare devi chiedere il permesso. E se non lo sapevi, allora imparatelo adesso. Che bene non stai messo, dici so cambiato, ma sei sempre lo stesso. Rainone, un povero represso, suoni i tuoi problemi dentro al cesso. E basta alla con sta storia, cacciatore contro preda. Che puoi essere più mofero tipo Mario Brega. Serve uno psicologo o qualcuno che te lega. Svelti prima che risucceda. Guarda che bella, sei l'unica e la prima che vorrei al mio fianco quando m'alzo la mattina. Giorno dopo giorno senti rima dopo rima. Ti tratterò ogni giorno da regina. Se non puoi darmi quello che vorrei, io mai ti sfiorerei. Se le cose non vanno ok, io mai ti toccherei. Anche se a volte tu mi metti nei guai, alle mani non arriverò mai. Ciò che chiede più rispetto per lei, per lei. Raina Aotta Villa da Posse. E adesso ultima tune per noi e poi ci diamo la buonanotte. Yeah. Mistilla. Listen up. Fire Babylon, the real mad sound in the area from Rome. Special da play. All ready for Otello Tavoli MC. Selecta, Ash, Smash and Hilario. This is Mistilla from Earthbeat Movement Style. I'm not ready for this champion song. Yeah. People not need no more vampire. Let your energy be your light. Me tell ya about fire from Babylon. When them a go play, the dance floor gets hot. People not need no more liar. Let your energy be your light. Fire from Babylon. When them a go play, Babylon's burning. Boom! When fire from Babylon play, them mash up the place. This is the best sound, good music and vibes. Hotel up on the mic, I go call up, pull up. While I smash and I love your pump all the good vibes. Me want to listen, fire from Babylon, cause them are the best. Saluto al nostro fratello Otello, che si trova a casa un po' malaticcio. Meglio stare a casa e riprendersi i carichi per queste feste e poi per l'ultima puntata del 2022 di Port All my energy is up for me. People no need no more vampire. Let your energy be your light. Me tell you about fire from Babylon. When them a go play, the dance floor gets hot. People no need no more liar. Let your energy be your light. Fire upon Babylon. When them a go play, Babylon's burning. Boom! This is the real mad sound in the area. Missy La tell of them. Big up fire upon Babylon. E una buonanotte a tutti quanti. E ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 21 alle 23. Qui su Port Royal, www.pirateiradio.it. Un saluto da me, DJ Smash, da Osh e dal nostro Tauli. Ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima. Good night and good vibes.